Ad alta voce, Piero Baldini legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Ursula ordinò un lutto a porte e finestre sbarrate, senza né entrata né uscita per nessuno, tranne che per faccende indispensabili. Proibì di parlare ad alta voce per un anno e mise il daguerrotipo di Remedios nel luogo dove si era vegliato il cadavere, con un nastro nero di traverso e una lampada a olio accesa perennemente. Le generazioni future, che non lasciarono mai estinguere la lampada, sarebbero rimaste sconcertate davanti a quella bimba con sottane arricciate, stivaletti bianchi e nastro di organdì fra i capelli, non riuscendo a farla coincidere con l'immagine accademica di una bisnonna. Amaranta s'assunse la responsabilità di Aureliano José. Lo adottò come un figlio che avrebbe dovuto dividere la sua solitudine e alleviarla dall'audano involontario che le sue suppliche stordite avevano versato nel caffè di Remedios. Pietro Crespi entrava in punta di piedi verso sera, con un nastro nero sul cappello, e faceva una visita silenziosa a una Rebeca che sembrava dissanguarsi nel vestito nero con maniche fino ai polsi. Sarebbe stata così irriverente la sola idea di pensare a una nuova data per il matrimonio che il fidanzamento si trasformò in una relazione eterna, in un amore di spossatezza che nessuno sorvegliò più, come se gli innamorati che in altri giorni avevano guastato le lampade per baciarsi fossero stati abbandonati all'arbitrio della morte. Senza più meta, completamente demoralizzata, Rebeca ricominciò a mangiare terra. Improvvisamente, quando il lutto era durato così a lungo che già si erano ripresi i convegni di Punto a Croce, qualcuno spinse la porta della strada alle 2 del pomeriggio, nel silenzio mortale della calura, e i pilastri tremarono così violentemente nelle fondamenta che Amaranta e le sue amiche che ricamavano sotto il portico, Rebeca che succhiava il dito nella stanza da letto, Ursula in cucina, Aureliano nel laboratorio e perfino José Arcadio Buendía sotto il castagno solitario ebbero l'impressione che un terremoto stesse squassando la casa. Arrivava un uomo enorme. Le sue spalle quadrate riuscivano a malapena a essere contenute nelle porte. Aveva una medaglietta della Vergine de los Remedios appesa al collo da bisonte, le braccia e il petto completamente cesellati con tatuaggi esoterici, e sul polso destro lo stretto bracciale di rame dei Niños en Cruz. Attraversò il salotto e il soggiorno tenendo in mano delle bisacce mezzo sfondate e comparve come un tuono nel porticato delle begonie, dove Amaranta e le sue amiche erano paralizzate con gli aghi a mezz'aria. «Giorno», disse con voce stanca, e buttò le bisacce sul tavolo da lavoro e passò alla larga verso il fondo della casa. «Giorno», disse alla sbigottita Rebeca, che lo vide passare davanti alla porta della sua stanza. «Giorno», disse ad Aureliano, che si trovava con tutti i sensi allerta al banco dell'oreficeria. Non si intrattenne con nessuno. Andò direttamente nella cucina e lì si fermò per la prima volta, alla fine di un viaggio che aveva cominciato dall'altra parte del mondo. «Giorno», disse. Ursula rimase per una frazione di secondo con la bocca aperta. Lo guardò negli occhi, lanciò un grido e gli saltò al collo gridando e piangendo di gioia. Era José Arcadio. Veniva povero come se n'era andato, tanto che Ursula dovette dargli 2 pesos. Per pagare il noleggio del cavallo. Parlava uno spagnolo mescolato a gergo di marinai. Gli chiesero dove era stato e rispose: «Qui e là». appese l'amaca nella stanza che gli assegnarono e dormì per 3 giorni. Quando si svegliò e dopo aver bevuto 16 uova crude, se ne andò direttamente nella bottega di Catarino, dove la sua monumentale corpulenza provocò un panico di curiosità tra le donne. Amaranta non poteva dissimulare la ripugnanza che le producevano a tavola i suoi rutti bestiali. Arcadio, che non conobbe mai il segreto della sua filiazione, rispondeva appena alle domande che Aureliano gli rivolgeva con l'intenzione evidente di conquistare il suo affetto. Aureliano cercò di far rivivere i tempi in cui dormivano nella stessa stanza. Cercò di restaurare la complicità dell'infanzia. Ma Osè e Arcadio li aveva dimenticati, perché la vita del mare gli aveva saturato la memoria con troppe cose da ricordare. Soltanto Rebecca soccombette al primo incontro. Il pomeriggio in cui lo vide passare davanti alla sua stanza, pensò che Pietro Crespi era un pupazzetto di marsapane a confronto di quel protomaschio il cui respiro vulcanico si avvertiva in tutta la casa. Cercava la sua prossimità con qualsiasi pretesto. Una volta Osè Arcadio le guardò il corpo con una sfacciata curiosità e le disse: «Sei molto donna, sorellina». Rebecca perse il controllo di se stessa, riprese a mangiare terra e calcinacci dei muri con l'avidità di altri tempi e si succhiò il dito con tanta ansietà che le si formò un callo nel pollice. Vomitò un liquido verde con sanguisughe morte, passò notti in bianco rabbrividendo di febbre, lottando contro il delirio, aspettando finché la casa trepidava per il ritorno di José Arcadio all'alba. Un pomeriggio, quando tutti dormivano la siesta, non resistette più e andò nella sua stanza. Lo trovò in mutande, sveglio, sdraiato nell'amaca che aveva appeso alle travi con funi da ormeggio. Le fece tanta impressione quella sua enorme nudità stratostata che provò l'impulso di indietreggiare. «Mi perdoni?» si scusò. «Non sapevo che lei fosse qui». Ma abbassò la voce per non svegliare nessuno. «Vieni qui», disse lui. Rebecca ubbidì. Si fermò vicino all'amaca, sudando freddo, sentendo che le si formavano groppi nelle viscere, mentre José Arcadio le accarezzava le caviglie, coi polpastrelli, poi i polpacci e poi le cosce, mormorando: «Ai, sorellina, ai, sorellina». Lei dovette fare uno sforzo sovrannaturale per non morire, quando una potenza ciclonica meravigliosamente regolata la alzò per la vita e la spogliò della sua intimità con 3 zampate e la squartò come un uccellino. Riuscì a rendere grazie a Dio di essere nata prima di perdere la conoscenza nel terribile piacere di quel dolore insopportabile, diguazzando nel pantano fumigante dell'amaca che assorbì come una carta asciugante l'esplosione del suo sangue. Tre giorni dopo si sposarono alla messa delle 5. Il giorno prima José Arcadio era andato nel negozio di Pietro Crespi. Lo trovò che stava dando lezione di citara. Non lo prese in disparte per parlargli. «Mi sposo con Rebecca», gli disse. Pietro Crespi impallidì, affidò la citara a uno dei suoi discepoli e diede la lezione per terminata. Quando rimasero soli nella sala zeppa di strumenti musicali e di giocattoli a molla, Pietro Crespi disse: «È sua sorella!» «Non mi importa», ribatté José Arcadio. Pietro Crespi si asciugò la fronte col fazzoletto impregnato di spigo. «È contro natura!» spiegò. «E inoltre la legge lo proibisce!» José Arcadio perse la pazienza, non tanto per il ragionamento, quanto per il pallore di Pietro Crespi. «La natura me ne frego, non una ma due volte», disse. «E vengo a dirglielo perché non si prenda il disturbo di andare a chiedere niente a Rebecca». Ma il suo comportamento brutale si infranse quando vide che gli occhi di Pietro Crespi si inumidivano. Pietro Crespi continuò ad andare a pranzo tutti i martedì, opponendo alla frustrazione una serena dignità. Mantenne il nastro nero sul cappello come un segno di considerazione per la famiglia e si compiaceva di dimostrare il suo affetto nei confronti di Ursula portandole regali esotici, sardine portoghesi, marmellata di rose turche e una volta un grazioso scialle di Manila. Amaranta lo riceveva con affettuosa sollecitudine, indovinava i suoi gusti, gli strappava i fili scuciti dai polsini della camicia e ricamò una dozzina di fazzoletti con le sue iniziali per il giorno del suo compleanno. Il martedì dopo pranzo, mentre lei ricamava nel portico, lui le faceva allegra compagnia. Un martedì, quando nessuno dubitava che prima o poi dovesse succedere, Pietro Crespi le chiese la mano. Lei non interruppe il suo ricamo, aspettò che passasse il caldo rossore delle sue orecchie e impresse alla sua voce una serena enfasi di maturità. «Naturalmente, Crespi», disse, «ma quando ci si conoscerà meglio, non è mai bene precipitare le cose». Ursula si turbò. Nonostante la stima che aveva per Pietro Crespi, non riusciva a stabilire se la sua decisione fosse buona o cattiva dal punto di vista morale, dopo il prolungato e clamoroso fidanzamento con Rebecca. Ma finì per accettarlo come un fatto senza qualifica, perché nessuno condivise i suoi dubbi. Aureliano, che era l'uomo di casa, la confuse maggiormente con la sua enigmatica e definitiva opinione. «Questi non sono tempi di andar pensando a matrimoni». Quella opinione, che Ursula comprese soltanto qualche mese dopo, era l'unico sincero parere che poteva esprimere Aureliano in quel momento. Non solo rispetto al matrimonio, ma anche a qualsiasi faccenda, che non fosse la guerra. Lui stesso, di fronte al plotone di esecuzione, non avrebbe capito molto bene come si era incatenata la serie di sottili ma irrevocabili casi che lo portarono fino a quel punto. Una volta, alla vigilia delle elezioni, don Apollinar Moscote tornò da uno dei suoi frequenti viaggi preoccupato per la situazione politica del paese. I liberali erano decisi a ricorrere alle armi. Dato che Aureliano in quell'epoca aveva nozioni assai confuse sulle differenze fra conservatori e liberali, suo suocero gli dava lezioni schematiche. «I liberali, gli diceva, erano massoni, gente di cattiva indole, favorevole all'impiccagione dei preti, alla instaurazione del matrimonio civile e del divorzio, al riconoscimento di uguali diritti sia ai figli legittimi che a quelli naturali. I conservatori, invece, che avevano ricevuto il potere direttamente da Dio, si battevano per la stabilità dell'ordine pubblico e della morale della famiglia. Erano i difensori della fede di Cristo, del principio dell'autorità, e non erano disposti a permettere che il paese venisse squartato in entità autonome». Lo spirito umanitario di Aureliano simpatizzava per l'atteggiamento liberale riguardo ai diritti dei figli naturali, ma in ogni modo egli non capiva come si potesse arrivare all'estremo di fare una guerra per cose che non si potevano toccare con mano. Gli parve un'esagerazione che suo suocero si facesse mandare per le elezioni 6 soldati armati di fucile al comando di un sergente in un paese senza passioni politiche. Alla vigilia delle elezioni lo stesso don Apollinar Moscote lesse un bando che proibiva a partire dalla mezzanotte del sabato e per 48 ore la vendita di bevande alcoliche e la riunione di più di 3 persone che non fossero della stessa famiglia. Le elezioni si svolsero senza incidenti. A partire dalle 8 della mattina della domenica si collocò nella piazza l'urna di legno, sorvegliata da 6 soldati. Si votò con la massima libertà, come poté controllare lo stesso Aureliano, che restò per quasi tutto il giorno a badare che nessuno votasse più di una volta. Alle 4 del pomeriggio una stamburata nella piazza annunciò la fine della giornata e don Apollinar Moscote sigillò l'urna con un'etichetta attraversata dalla sua firma. Quella sera, mentre giocava a domino con Aureliano, ordinò al sergente di rompere l'etichetta per contare i voti. C'erano quasi tante schede rosse quante azzurre, ma il sergente ne lasciò soltanto 10 rosse e completò la differenza con le azzurre. Poi tornarono a sigillare l'urna con una nuova etichetta e il giorno dopo, nelle prime ore, se la portarono nel capoluogo di provincia. «I liberali faranno guerra», disse Aureliano. Don Apollinar Moscote non si distrasse dalle sue tessere del domino. «Se lo dici per la sostituzione delle schede, non lo faranno», disse. «Ne lasciamo qualcuna rossa perché non ci siano reclami». Aureliano comprese gli svantaggi dell'opposizione. «Se io fossi liberale», disse, «per questa faccenda delle schede la guerra la farei». Suo suocero lo guardò al di sopra della montatura degli occhiali. «Ah, Aurelito», disse, «se tu fossi liberale, neanche essendo mio genero, avresti visto la sostituzione delle schede». Ciò che in effetti suscitò indignazione nel villaggio non fu il risultato delle elezioni, ma il fatto che i soldati non avessero restituito le armi. Un gruppo di donne parlò con Aureliano perché riuscisse a ottenere da suo suocero almeno la restituzione dei coltelli da cucina. Don Apollinar Moscote gli spiegò, con stretto riserbo, che i soldati avevano portato con loro le armi requisite come prova che i liberali si stavano preparando per la guerra. Lo spaventò il cinismo della dichiarazione. Non fece alcun commento. Però una certa sera in cui Grineldo Marquez e Magnifico Visbal parlavano con altri amici dell'incidente dei coltelli, gli chiesero se era liberale o conservatore. Aureliano non indugiò. «Se bisogna essere qualcosa, sarei liberale», disse, «perché i conservatori sono degli imbroglioni». Il giorno dopo, sollecitato dai suoi amici, andò a visitare il dottor Alirio Noghera perché gli curasse un ipotetico dolore al fegato. I numerosi foglietti rossi che comparvero nell'urna e che furono attribuiti da don Apollinar Moscote alla smania di novità propria dei giovani facevano parte del suo piano. Obbligò i suoi discepoli a votare per convincerli che le elezioni erano una farsa. «L'unica cosa efficiente», diceva, «è la violenza». Fu semplicemente per un caso che rivelò i suoi sentimenti politici e fu soltanto la curiosità che gli fece saltare il ticchio di visitare il medico per farsi curare un dolore che non aveva. Nella stamberga puzzolente di Ragnatela Canforata si incontrò con una specie di iguana polverosa i cui polmoni fischiavano quando respirava. Ancor prima di fargli domande, il dottore lo portò vicino alla finestra e gli esaminò l'interno della palpebra inferiore. «Non è lì», disse Aureliano, come gli avevano insegnato. Si premette il fegato con la punta delle dita e aggiunse: «È qui dove sento il dolore che non mi lascia dormire». Allora il dottor Noghera chiuse la finestra col pretesto che c'era troppo sole e gli spiegò in termini semplici perché era un dovere patriottico assassinare i conservatori. Per parecchi giorni Aureliano portò una boccetta nel taschino della camicia, la tirava fuori ogni 2 ore, metteva 3 globuletti sulla palma della mano e se li gettava di colpo in bocca per scioglierli lentamente sulla lingua. Il dottor Noghera era un mistico dell'attentato personale. Il suo sistema si riduceva a coordinare una serie di azioni individuali che in un colpo maestro di portata nazionale liquidasse i funzionari del regime con le loro rispettive famiglie e soprattutto i bambini per sterminare il conservatorismo nel germe. Don Apollinare, Moscote, sua moglie e le sue 6 figlie erano naturalmente nella lista. «Lei non è né liberale né niente», gli disse Aureliano senza scaldarsi. «Lei non è altro che un beccaio». «In questo caso», ribatté il dottore con uguale calma, «restituiscimi la boccetta. Ormai non ti serve più». Solo 6 mesi più tardi Aureliano seppe che il dottore lo aveva rinnegato come uomo d'azione, definendolo un sentimentale senza avvenire, con un carattere passivo e una definita vocazione solitaria. Cercarono di stargli appresso, temendo che denunciasse la cospirazione. Aureliano li tranquillizzò. Non avrebbe detto una sola parola. Ma la notte in cui fossero andati ad assassinare la famiglia Moscote, avrebbero trovato lui a difendere la porta. Fece mostra di una forza di decisione così convincente che il piano fu rimandato a data indefinita. Fu in quei giorni che Ursula chiese la sua opinione sul matrimonio di Pietro Crespi. Alla fine, ai primi di dicembre, Ursula corse sconvolta nel laboratorio. «È scoppiata la guerra!» In realtà era scoppiata da 3 mesi. La legge marziale imperava in tutto il paese. L'unico che lo aveva saputo per tempo era Don Apollinare Moscote, ma non diede la notizia nemmeno a sua moglie, in attesa che arrivasse il plotone dell'esercito, che doveva occupare il villaggio di sorpresa. Entrarono senza far rumore prima dell'alba, con 2 pezzi di artiglieria leggera trainati da mule, e stabilirono il quartier generale nella scuola. Si impose il coprifuoco alle 6 del pomeriggio. Si fece una perquisizione più drastica della precedente, casa per casa, e questa volta si portarono via perfino gli attrezzi agricoli. Trascinarono in piazza il dottor Noghera, lo legarono a un albero e lo fucilarono, senza processo. Padre Nicanor cercò di impressionare le autorità col miracolo della levitazione e un soldato gli scortecciò la testa col calcio del fucile. L'esaltazione liberale si spense in un terrore silenzioso. Aureliano, pallido, ermetico, continuò a giocare a domino col suocero. Comprese che, nonostante il suo titolo attuale di capo civile militare della piazza, Don Apollinare Moscote era di nuovo un'autorità decorativa. Una domenica, 2 settimane dopo l'occupazione, Aureliano entrò nella casa di Gerineldo Marquez e con la sua parsimonia usuale chiese una scodella di caffè senza zucchero. Quando i due restarono soli nella cucina, Aureliano infuse nella sua voce un'autorità che non gli si era mai conosciuta. «Prepara i ragazzi», disse. «Andiamo in guerra!» Gerineldo Marquez non volle credergli. «Con quali armi?» chiese. «Con le loro», rispose Aureliano. Il martedì a mezzanotte, con un'azione scervellata, 21 uomini non ancora trentenni, al comando di Aureliano Buendia, armati di coltelli da tavola e ferri affilati, presero di sorpresa la guarnigione, si impadronirono delle armi e fucilarono nel patio il capitano e 4 soldati. Quella stessa notte, mentre si udivano le scariche del plotone di esecuzione, Arcadio fu nominato capo civile e militare della piazza. I ribelli sposati ebbero appena il tempo di salutare le loro spose, che abbandonarono alle proprie risorse. Se ne andarono all'alba, acclamati dal popolo, liberato dal terrore, per unirsi alle forze del generale rivoluzionario Vittorio Medina, che secondo le ultime notizie si trovava dalle parti di Manaure. Prima di andarsene, Aureliano estrasse Don Apollinare Moscote da un armadio, Lei può rimanere tranquillo, suocero, gli disse. Il nuovo governo garantisce sulla parola d'onore la sua sicurezza personale e quella della sua famiglia. Don Apollinar Moscote fece un po' di fatica a riconoscere quel cospiratore, in stivaloni e fucile a bandoliera, col quale aveva giocato a domino fino alle 9 di sera. «Questo è uno sproposito, Aurelito!» esclamò. «Proposito un corno!» disse Aureliano. «È la guerra!» «E non mi chiami più Aurelito, perché ormai sono il colonnello Aureliano Buendia!»